Quando c'era il sole, pareva che volesse splendere solo per la nostra vallata. Tanto tutto era pieno di luce, luminoso. I boschi, i prati, i castagneti, gli oliveti. I vigneti. E se si alzava un poco di vento, allora tutto sembrava ancora più prezioso, perché l'aria muoveva le fronde degli alberi dove filtrava la luce del sole, e allora tutto brillava. Era come un manto tempestato di cristalli. Mi piaceva guardare la mia vallata piena di luce dalla finestra della mia casa. La mia casa era proprio sul pendio, accanto al villaggio. Dicevano faceva 10.000 abitanti. Accanto alla mia ce n'erano altre di case così a un piano solo. Erano case di pastori, di contadini. Questo facevamo. Questo facevano i nostri padri e le nostre madri per tenere lontana la miseria e la fame. Mi piaceva la mia casa, anche se il tempo e il fumo l'avevano annerita e riempita di crepe. Sono nata là, la prima domenica di maggio del 1838. Come vorrei chiudere gli occhi ora e tornare là. Tornare là, dove c'era la mia casa col tetto affumicato. Ecco il cortile. Sì. E la porta è aperta. Entro. Il grande letto di ferro un po' arrugginito. Sì, è arrugginito, ma qui è tutto pulito. Le lenzuola sono pulite e le coperte di lana che fa mia madre. Qui dormono i miei genitori. Mio padre e mia madre. E quello più piccolo, lì vicino, è il letto dei miei fratelli. Ci dormono tutti insieme, lì, stretti, stretti. Ecco il mio letto. Pochi vimini e tanta paglia. Alzo la testa al soffitto. Le grandi travi di legno, con le corde e i fili di ferro intorno per tenere le pentole di rame, le padelle. Il cassone di mio padre. Il cassone di mio padre, eccolo. Sì. Lì ci teneva i semi. I ceci, la segale. E quanta fatica per quei pochi semi. E poi la finestra. La finestra che dà sulla vallata piena di luce. Le voci dei miei fratelli, il sorriso di mia madre. Mia madre. Mia madre ha fatto 4 figli, maschi, e me, femmina. Ha ereditato un poco di terra e 2 case. In una ci abitavamo noi, nell'altra più piccola accanto c'era la stalla e il fienile. Per mantenerci meglio filava la lana. Doveva farne tanta, tanta. Io l'aiutavo e lavoravamo fino a notte fonda perché se ne facevamo tanta, ma proprio tanta, forse riuscivamo a guadagnare 4 centesimi. Mio padre aveva preso in affitto un po' di terra dal padrone che coltivava e tutto quello che ci faceva era per noi, la sua famiglia. Non ci facevano mancare niente. Sapevamo anche leggere e scrivere. Tutti quanti, anch'io. Anch'io, sì, che ero femmina. Mio padre diceva: non c'è famiglia contenta senza una femmina. Anche zio Martino lo diceva. Ma non tutti la pensavano così. Li avevo sentiti al villaggio. Una femmina? Una femmina è una femmina e basta. Zio Martino ci aveva insegnato a leggere e scrivere. Lui aveva fatto la guerra. Aveva perso una gamba in guerra a Saragozza, in Spagna. Era il maestro del villaggio. E si manteneva con quello che le famiglie gli davano per dare un'istruzione ai loro figli. Ma erano sempre meno quelli che potevano permetterselo. Noi eravamo fortunati, perché eravamo la sua famiglia. Quando faceva buio, qualche volta zio Martino veniva da noi a casa e trascinava con sé i vecchi del paese, quelli che avevano fatto la guerra come lui, i reduci di guerra. Erano uomini che avevano combattuto in Spagna come lui, in Prussia, in Russia. Avevano combattuto per Bonaparte, per Marat, per i Borboni, per i repubblicani. Parlavano fitto, fitto, fitto. Ricordavano, parlavano, raccontavano. Erano storie terribili quelle, di guerra, di imboscate, di morti, di battaglie. Io li ascoltavo e mi facevano paura quei racconti. Ma stavo lì ad ascoltare, anche perché parlavano di altri paesi, dove si parlavano altre lingue, dove si facevano altre cose. E poi sognavo e dicevo: un giorno li vorrei vedere quei posti. E poi sognavo il mare. Il mare. Chi l'aveva visto diceva che era grande. Era proprio grande, grande, grande, immenso. Era più grande, dicevano, più grande di quello che puoi vedere. Il mare. Volevo vedere il mare, sì. E le vele, e le barche. Le vele, sì, che si gonfiavano al vento e andavano sulle onde. E poi le onde che arrivavano sulla spiaggia. Le conchiglie. Dicevano che dentro le conchiglie c'era il rumore del mare. L'odore del mare. Dicevano che aveva anche un buon sapore. Lo sapevo che non si poteva bere. Avrei voluto vedere il mare, sì. Avrei voluto essere una madre. E come mia madre, svegliarmi presto la mattina, preparare il pranzo a mio padre e preparare la casa e il pane caldo. Mamma, io da grande sarò una mamma, dicevo. So come si fa. Avevo visto crescere mio fratello piccolo. Quando un bimbo piange, mamma, lo si deve prendere subito in braccio. E se piange ancora, allora gli si fa fare cavalluccio. E se piange ancora, gli si canta una filastrocca. E se piange ancora, allora gli si racconta una storia. E se non basta, allora lo si tiene stretto, stretto, e gli si dà la poppa o un pezzo di pane secco. E se non basta ancora e piange, allora si inventa un gioco. E si va a terra con lui e si gioca e lo si prende in braccio e lo si bacia. E lui ride. E così, con amore e pazienza, si vince il pianto. Amore e pazienza. Amore e pazienza. C'era nello sguardo di mia madre. Eccola, con le ciocche di capelli che scappano dalla crocca che teneva dietro la nuca. Aveva dei capelli bellissimi. Erano lunghi, castani e quando stava al sole era come se tra i suoi capelli ci fosse una polverina d'oro, perché brillavano. Mi piaceva toccarli. Mamma, posso farti le trecce? E lei si lasciava fare. Non ho niente di lei. Un nastro, un crocifisso, niente. I ricordi. Nessuno ci può rubare i ricordi. Quante volte ho pensato, cercando di capire come è cominciato tutto questo, com'è diventato questo. Una druda, ecco cosa sono adesso, una druda. Druda vuol dire sciatta, sporca, puttana, non una donna. Non una persona. Forse neanche una cosa. Niente. Io sono niente. Dicono che una femmina ha tre padroni. Il primo, il padre. Padre ti può picchiare, anche a morte si vuole, lo può fare. Decide se maritarti, se mandarti in convento o se lasciarti zitella. Il secondo padrone, il fratello, ha lo stesso potere del padre. Ma se sei sfortunata, dovrai sopportare anche le angherie della cognata. Il terzo padrone è il marito. Se è buono ti farà mangiare, non ti picchierà più di tanto. Ma tu dovrai stare zitta ed obbedire e fare il tuo dovere. E allargare le gambe sempre, ogni volta quando lui avrà voglia. Ma io non mi sentivo così. Io non mi sentivo come le altre. Noi ci volevamo tutti bene. Io avevo imparato a leggere. Io sapevo leggere, sapevo scrivere. Sapevo di storia. Avevo ascoltato i racconti di zio Martino, io sapevo scrivere una lettera, io sapevo pensare, io sapevo dire no. questo carattere. Questo carattere, ecco che cosa mi ha fatto diventare una druda. Questo succede quando dal popolo, e figuriamoci se donna, qualcuno si alza la testa per combattere le ingiustizie, le prepotenze. Quando ero bambina e c'era Re Ferdinando, dicevano: tutto va bene. I Borboni governavano con le tre F. F, come festa, festa, festa, festa, festa per il re, festa per la regina, festa per l'imperatore, festa per la corona, festa per l'erede al trono, festa per la scoperta dell'America, festa, festa, festa per i santi, festa per il battesimo, festa per la comunione, festa per la cresima, festa per i matrimoni, festa, festa, festa per il Natale, festa per il Capodanno, festa, festa per la Pasqua, festa per la mietitura, festa, festa, festa per il maiale, festa, festa, festa, la seconda F, come farina. I Borboni assicuravano il pane a tutti. La terza F, forca. Poche regole. Non rubare. Non uccidere. Rispettare il re. Non tradire la corona. Se sgarri, paghi. Vieni processato davanti al popolo. E se condannato, appeso in piazza. Quanti ne ho visti appesi nelle piazze? Sotto il sole cocente, bagnati dalla pioggia, dalla neve, beccati dalle cornacchie, sfigurati nella morte, sempre più putrefatti e puzzolenti nelle piazze. Fino a che forse qualcuno della famiglia veniva a prenderli per seppellirli, ma fuori dalle mura. Quanti innocenti tra la gente del popolo ho visto appese nelle piazze per cose che non avevano commesso, e quanti padroni colpevoli ho visto liberi e sempre più arroganti, come il nostro padrone. Non dimenticherò mai quegli occhi, piccoli, con le palpebre sempre basse, perché incapace di guardarti negli occhi. Con quei pochi capelli ispidi che uscivano dal suo cappellaccio di feltro e quel tabarro scuro sopra il cavallo, sempre in giro con i suoi uomini, i suoi cani affamati e famelici per controllare le sue terre. E quando passava dovevi inchinarti ed abbozzare e ubbidire al padrone. Bisogna sempre dire di sì. Bisogna sempre ubbidire, perché è il padrone. Questo mi diceva mio padre. Non importa se ti offende, devi sopportare ed ubbidire. E anche se ti picchia, soltanto così per divertirsi, non importa. Devi ubbidire. Quando penso a mio padre, era un uomo onesto e modesto, mi ribolle il sangue pensando a quello che gli hanno fatto. Quella mattina quando tutto è cominciato, era iniziato come un giorno qualsiasi. Mia madre si era svegliata presto, come sempre, per preparare il pranzo a mio padre che andava nei campi. Preparava il pane caldo per noi. Lo avrebbe portato a tavola per noi figli. A un certo punto abbiamo sentito abbaiare i cani. Erano i cani del padrone. sempre affamati, sempre famelici. E abbaiavano, ed erano sempre più vicini, abbaiavano. Poi a un certo punto abbiamo sentito una gran confusione nell'aia. Abbiamo sentito le nostre capre belare forte, come impazzite, le galline starnazzare, e i cani abbaiare, ed erano lì. Allora noi siamo usciti per vedere che cosa era accaduto, che cosa stava succedendo. Abbiamo visto i cani del padrone ad azzannare e mangiare le nostre capre, i nostri conigli. Allora mio fratello, quello più grande, ha preso un bastone per cercare di allontanare i cani. Andate via, diceva, via, ma senza volere. Ha colpito un cane del padrone che è rimasto a terra morto. E allora il padrone e i suoi uomini hanno cominciato a picchiarlo con la verga, a picchiarlo. E mia madre ha detto no. Ed è andata ad aiutare quel figlio che era poco più grande di un bambino. Ma loro non hanno avuto pietà per una donna, per una madre, per un bambino. Non hanno avuto pietà, hanno continuato a colpire finché non li hanno visti a terra, quasi affogati nel loro stesso sangue. Poi il padrone ha detto ai suoi uomini di raccogliere il suo cane. Ha sputato a terra e se ne sono andati. Noi bambini eravamo nella disperazione. Io ho fatto quello che faceva mia madre quando qualcuno di noi si faceva male. Sono andata a prendere un catino d'acqua. Mi tremavano le gambe. Mi veniva da vomitare. Mio fratello respirava ancora. Era una maschera di sangue. Il sangue gli usciva dalla bocca, a flotti, come a soffocarlo. Mia madre era immobile. Una ferita aperta. Il viso non si vedeva perché era coperto dai capelli, dalla terra, dal sangue. Io ho cercato di pregare. Ave Maria, ma non mi ricordavo le parole. Poi ho visto buio. Era come se tutto quello che avevo intorno non c'era. Era come se tutto quello che avevo dentro volesse scivolare fuori da me. Tutto. Cuore, cervello, stomaco, tutto stava scivolando fuori da me, anche l'anima. È come se fossi morta anch'io in quel momento. E un'altra me restava sulla terra. Solo per vendicare la mia famiglia. Mia madre e mio fratello sono morti 2 giorni dopo, senza riprendere conoscenza. Noi bambini ci ha preso zio Martino. 2 miei fratelli più piccoli sono morti 1 anno dopo. Si sono ammalati. D'inverno. E sono morti, piangendo, tanto. Mio padre, accusato di omicidio, innocente, dal padrone che gli aveva ucciso la moglie e il figlio, è morto in carcere, poco tempo dopo. Io e mio fratello siamo rimasti soli. Di me, giovinetta, non ricordo quasi niente. Vivevo in silenzio. Se qualcuno mi chiedeva qualcosa, non rispondevo. Portavo a pescolare le capre, pulivo la casa e stavo in silenzio, silenzio. Io vivevo dentro di me, con me, dentro di me. L'unica cosa che mi aiutava a passare la giornata era ricordare tutto quello che mi aveva insegnato zio Martino. I nomi delle città, i nomi delle città, i nomi delle città, i nomi dei fiumi, i nomi dei fiumi, i nomi dei fiumi, i numeri, i numeri, i numeri, i numeri. Non potevo permettermi un pezzo di carta e una matita, e allora scrivevo per terra con quello che trovavo. E sulla terra, sì, con quello che c'era, un pezzo di legno, un chiodo, qualsiasi cosa. Scrivevo, scrivevo, componevo dei pensieri, scrivevo e cancellavo, bastava passare il piede sulla terra e poi riscrivevo, scrivevo. E intanto sono diventata donna. Mi sono allargati i fianchi, cresciuto il seno, allungate le gambe, anche il viso cambiato. E ho cominciato ad odorare di femmina. L'ho capito il giorno in cui quel contadino mi ha gettato a terra, mi ha picchiato e mi ha presa. E ho vomitato. Ho vomitato. Ho vomitato, vomitato, vomitato e ho avuto male. Tanto male. Per giorni. Ho cercato di curarmi con degli impacchi d'acqua. Poi è passato. Non potevano farmi più male di quello. Io non avevo più anima. Quando mio fratello è venuto a sapere di quell'offesa, è corso a vendicarmi. Gliel'ha fatto pagare a quella bestia. Mi ha portato con sé. Lui e altri disperati come lui si erano messi insieme per combattere contro le ingiustizie, per fare un nuovo governo. Sarà un nuovo governo, vedrai. Saremo liberi. Potremo avere la nostra terra, avere la nostra dignità, avere il nostro futuro. Li avevano illusi. Avevano fatto tante promesse, dato dei soldi, dei cavalli, delle armi. E si andava a rubare nelle masserie oro, cibo, soldi, cavalli. Ma le promesse non venivano mantenute. Intanto, però, mio fratello, la banda e io siamo diventati briganti. Brigante si diventa per disperazione. Nessuno, se ha qualcosa davvero da perdere, sceglie di vivere braccato fino alla morte, nascondendosi nei boschi e nelle grotte. Noi non siamo niente, siamo carne da macello. E basta, bestie. E chi non lo è lo diventa. Bestie! E come bestie vivevamo nei boschi. Nei boschi ci vivono i lupi, le volpi, le civette, i cinghiali, i gufi, i serpenti. E quando cercavi di riposare la notte e ti rendevi conto di far parte di quel mondo, di quell'incubo, allora non riuscivi più a dormire. E ti rendevi conto che quella vita era oramai la tua vita. Ed era un viaggio senza ritorno. Mio fratello era molto alto. Era bello. Aveva i capelli scuri, la barba scura, che lo rendeva terribile. Gli occhi neri, fondi. Era impossibile tenere il suo sguardo quando ti guardava fisso. Aveva capito di essere stato imbrogliato con tutti quei discorsi sulla libertà, il futuro, la dignità. Era diventato un capo, cattivo, sanguinario, temuto. Tutti lo temevano. Lui ora combatteva solo per soldi. Le cose stavano così. I galantuomini fingevano di stare con i piemontesi. In realtà non le volevano le riforme, perché temevano di perdere i loro privilegi. E allora pagavano di nascosto noi briganti. Pagavano di nascosto i briganti perché volevano il ritorno del re. I piemontesi erano i più furbi di tutti, perché ai contadini dicevano: volete la terra? Prendetela, compratela. Ma quelle terre costavano troppo. Nessun contadino avrebbe potuto comprare una terra. E ai galantuomini dicevano: comprate le vostre terre, anche se sono già le vostre. A noi briganti ci ha pensato la legge Pica, procedura di repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle zone infette. Ecco che cosa eravamo noi briganti, degli esseri infetti. Infetti, degni soltanto di morire. Se incontravi un uomo armato in compagnia di altri due, quelli erano tre briganti, andavano ammazzati. Anche un pastorello che guardava le pecore, quello era un brigante, gli andava tagliata la testa. Quante famiglie ho visto sterminate. Quante donne infilzate, quanti vecchi, quanti bambini picchiati a morte soltanto perché sospettati di essere briganti. Le guardie dei delinquenti legalizzati dalla politica, mandati in giro per le campagne soltanto per ammazzare briganti. Li vedevi andare in giro tronfi sui loro cavalli con tante teste di briganti legate sulle loro cinte, ansiosi soltanto di andare a riprendere i soldi delle taglie nelle caserme. Poi, un giorno, è arrivato il generale, Il generale, venuto da lontano. Borges, il generale mandato dal re. Per riconquistare il regno delle due Sicilie. Doveva costruire il suo esercito. Un esercito di briganti. Allora, noi siamo tornati ad essere rivoluzionari! Rivoluzionari. E si andava ad assalire le masserie. Si andava a rubare, ad ammazzare. E noi, drude, con i maschi. Le drude vivono, vestono, sparano, come i maschi. Una druda sa usare un fucile, un pugnale, le mani. Io ho ucciso, scannato, picchiato, rubato, bruciato, come un maschio. Io ho ucciso. Sì, ho ucciso. Uccidere è facile. Dopo che l'hai fatto la prima volta, ti rendi conto che non è niente. È come quando devi scannare un capretto o un maiale. È un attimo. E poi quella cosa che prima si muoveva, ora non si muove più. È lì, a terra, fredda. È ferma. Noi non siamo niente. Un pezzo di carne e sangue. Freddo e fermo. E continuavano ad usarci. Perché a questo servivamo. A questo servivano i briganti. Dovevamo creare confusione, ammazzare, uccidere, scannare, rubare. E così loro potevano fare meglio gli accordi tra la politica e gli affari e intanto rubare i soldi alla povera gente, alla gente del popolo. È sempre così. La strategia è sempre la stessa. Noi briganti dovevamo rubare, uccidere, bruciare e così cancellare archivi, registri, le prove di una politica sbagliata, ignorante, di una cattiva politica e di una cattiva amministrazione. A questo servivamo. Dicevano che le drude sono più cattive dei maschi. Noi siamo più cattive dei maschi. Ho sentito di quella druda che, dopo aver combattuto con gli uomini contro i francesi, quando ha riconosciuto un ufficiale che qualche giorno prima l'aveva struparata, gli ha ficcato il pugnale nel petto, gli ha preso il cuore e quello pulsava ancora. E l'ha mangiato. Oh, quella druda che quando la bestia che aveva accanto gli ha strappato il bambino dal petto, l'ha scaraventato a terra soltanto perché disturbava e piangeva. Lei è stata in silenzio. Ha sotterrato il bambino, l'ha vegliato. E appena quella bestia da cui quel bambino era nato si era addormentato, gli ha puntato il fucile sulla tempia e ha sparato. Oppure quella che è gravida, è andata incontro al nemico soltanto per aiutare la banda a scappare. Noi drude combattiamo fino alla fine. E preghiamo di non essere catturate vive. Morire in carcere vuol dire morire di tifo, di lebbra, di disenteria, di freddo, di pazzia. È una vita non vita la nostra. Una vita non vita. Quando vogliamo riposarci, andiamo nei boschi. Un sasso per cuscino, il cappotto per coperta, il fucile sempre accanto. E se qualcuno di noi si fa male, allora ecco i rimedi dei padri. Acqua e aceto per disinfettare. Le medicine, olio d'oliva, bianco d'uovo, patate. E quell'erba che si trova dalle nostre parti, se ben pestata, diventa un unguento bianco e denso. Va bene per l'infezione. L'ultima battaglia. L'ultima battaglia. Lo sapevo. Sarebbe stata l'ultima. Avevo sentito. Era l'alba. Faceva molto freddo. Così freddo che i cavalli sembravano draghi per quanto fumo usciva dalle loro bocche. Io erano giorni che sentivo un peso. Un peso, sì, qui. Peso sotto il cuore, non mi lasciava respirare. Presentimento. Ecco cos'era. Lo sentivo. Ci eravamo rifugiati in una masseria. E all'alba dovevamo raggiungere il bosco. Ma ci hanno tradito. È stato uno dei nostri. I nemici ci avevano seguito da giorni. Erano lì appostati, vicini. E appena siamo usciti, hanno cominciato a sparare, ma noi non avevamo difese. Non avevamo difese, eravamo scoperti e il bosco era lontano e loro sparavano e noi cadevamo morti, anche i nostri cavalli. Abbiamo combattuto per ore. Alla fine abbiamo continuato, corpo a corpo, con i pugnali, con le pietre, con le mani. Qualcuno è scappato. Molti sono morti, tanti sono morti. E chi è rimasto non aveva speranza. Era arrivato il nostro momento. Siamo stati catturati. Quando si cattura un brigante, lo si ripulisce, lo si veste, gli si dà un buon fucile e lo si fotografa. Se è ancora vivo, gli si dice di fare una faccia cattiva. Questa è l'immagine che deve passare di noi. Cattivi, spietati dalle bestie, ma ben vestiti e arroganti. Quando si cattura un brigante, quando si cattura un capo, allora tutto il popolo gli va vicino, lo vuole vedere, lo vuole toccare, vuole vedere la faccia di un brigante cattivo e spietato. Quanti briganti ho visto torturati, umiliati e poi fotografati e dati in pasto così al popolo. Un macabro trofeo, questo siamo. Questo scialle, questi vestiti non sono miei. Me li hanno dati per la fotografia. Mi hanno dato anche un pettine. È uno specchio. Nessuno mai curerà la mia ferita infetta, che oramai non pulsa più e che questa gonna nasconde. Era tanto che non vedevo il mio viso. Assomiglio a mia madre. La stessa piega intorno alla bocca e gli occhi gonfi. Il tempo passato. Fra poco verranno per la fotografia. Mi diranno di fare la faccia cattiva. Poi mi picchieranno, mi umilieranno, mi sputeranno addosso. Io sono niente. Oggi vado a morire. Vorrei soltanto avere un attimo di tempo per vedere ancora una volta la mia casa col tetto affumicato, la vallata piena di luce, il sorriso di mia madre. E poi, per sempre, nero!